Ah, seconda doppietta musicale, come già detto, la prima canzone era dei Missing Person, gruppo New Wave rock elettronico americano attivo dalla prima metà degli anni Ottanta, e poi abbiamo sentito i Litfiba con Onda Araba, Unica e Pure Magia, mi viene da dire. Onda Araba è tratto dall'EP Transea, uscito nel 1986 in formato 12 pollici, e all'epoca di Onda Araba, nella formazione di Litfiba, delle Litfiba erano presenti, oltre all'immortale Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo, Antonio Jazzi e Ringo De Palma. Ringraziamo Dynamite, come al solito, per la descrizione delle tracce. Torniamo in diretta e, come detto anche nell'anticipazione della scaletta, andiamo in collegamento con un presidio in solidarietà con la lotta delle prigioniere e dei prigionieri palestinesi e con tutti i prigionieri e le prigioniere nelle carceri italiane, europee, americane e degli stati imperialisti. Questo presidio si sta tenendo in via Padova, all'angolo con via Giacosa, e ora andiamo in collegamento in diretta con una compagna. Ciao, ci senti? Sì, vi sento bene. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao, Allora, grazie. Grazie di essere qui a Radio cominciare? Tagadà. Allora, Grazie niente, noi mille. volevamo iniziare cercando, insomma, di capire un po' com'è la situazione lì al Certo. presidio e se ci vuoi spiegare un po' il perché dell'iniziativa. Allora, questo presidio noi l'abbiamo convocato con diversi punti, no? Siamo partiti dalla questione dei prigionieri palestinesi proprio perché c'è da, diciamo dall'inizio del 2022 c'è uno stato d'agitazione generale nelle carceri palestinesi. Tutto era cominciato, diciamo, tra febbraio-marzo di quest'anno, quando attraverso un comunicato il movimento dei prigionieri aveva deciso di inasprire la lotta contro appunto quella che era stata la decisione della direzione carceraria sionista di annullare tutti gli accordi con il movimento, proprio in ritorsione della famosa evasione dei sei palestinesi dal carcere di massima sicurezza. Ma non solo. Denunciando anche l'uso continuo dell'isolamento carcerario, quello della violenza e della tortura anche collettiva, da parte di questi reparti speciali sionisti che compiono quasi quotidianamente irruzione nelle celle dei vari carceri. Ecco, il movimento in generale poi sostiene e appoggia la lotta dei prigionieri in detenzione amministrativa. Che cosa significa? Questi sono prigionieri sottoposti alla pratica che ricordiamo è stata ereditata dal colonialismo inglese, attraverso la quale si viene incarcerati senza dover fornire prova delle accuse, senza un processo e per un tempo indefinito. Ultimamente ci sono stati anche i casi di ex prigionieri che una volta scontata la pena, dopo qualche mese sono stati di nuovo riarrestati appunto con questa formula della detenzione amministrativa. Ecco, i prigionieri hanno coniato una sorta di slogan che è "La nostra decisione è libertà". E quindi hanno anche effettuato in diversi periodi un boicottaggio totale di tutti quelli che sono i procedimenti giudiziari che sono relativi alla detenzione amministrativa. Questo perché è un modo per non riconoscere né legittimare con questa azione i tribunali sionisti d'occupazione. Ecco, poi c'è stato un primo periodo dove una trentina di prigionieri in regime di detenzione amministrativa hanno iniziato uno sciopero della fame, questo nel mese di settembre, e al 9 di ottobre circa se ne sono aggiunti altri 20 prigionieri. Sciopero che è stato sospeso perché sono state ottenute alcune delle loro rivendicazioni. Naturalmente fra queste ottenute non c'è quella della cessazione della, dell'uso della detenzione amministrativa. Ecco, diciamo che vogliamo ricordare che i prigionieri sono comunque sempre parte attiva della lotta di questo popolo che si rifiuta di essere diviso e isolato. E all'interno di questa lotta ci premeva anche ricordare la figura del compagno Georges Ibrahim Abdallah, comunista libanese, militante del Fronte Popolare di Liberazione e successivamente delle FARL, che sono le frazioni armate rivoluzionarie libanesi, che si è sempre battuto per la liberazione delle masse popolari arabe e palestinesi. È sempre stato solidale verso i prigionieri, ma non solo, ha partecipato a diversi scioperi della fame, ha espresso comunque la sua vicinanza alle lotte sociali in Francia, nel periodo appunto degli anni scorsi in cui c'era stato molto fermento, eccetera. Ha riaffermato comunque sempre la sua identità di comunista e di combattente. E questo per quanto riguarda la figura, poi sicuramente molti sapranno di che cosa si tratta e sapranno anche che ogni anno nel mese di ottobre viene dedicato un periodo per la liberazione del compagno Abdallah e c'è una grossa manifestazione in Francia dove appunto viene richiesto il suo rilascio. Sì, ecco, questo era per quanto riguarda a livello internazionale. Per l'Italia invece... Sì, infatti volevo dirti, sì. Tipo nel testo della chiamata, insomma, viene anche citata appunto l'Italia, dove ci sono dei prigionieri politici che sono esatto. In carcere da oltre 40 anni e poi sì. Ci sono nello specifico, al momento ne abbiamo parlato prima sempre con una compagna, sì. Della situazione di Alfredo Cospito che è in sciopero della fame in 41 certo. bis, ma ci esatto. sono altri prigionieri esatto. in 41 bis. Se appunto volevi dirci due cose insomma sulla situazione dei prigionieri politici italiani più in generale. Ecco, infatti dicevamo che appunto loro sono in queste strutture definite di alta sicurezza, ci sono alcuni compagni che sono lì da più di 40 anni e che continuano comunque a resistere e da oltre 17 anni i militanti comunisti Nadia Lioce, Marco Mezzasalma e Roberto Morandi sono sottoposti al 41 bis introdotto nel 1986 con la legge Gozzini. Ecco, un regime che è carcerario di annientamento, studiato appunto per provocare danni fisici e mentali, tramite appunto la tecnica della deprivazione sensoriale, che è una sorta di condanna alla morte politica e sociale. A questo si è aggiunto che dal maggio scorso in questo regime speciale è stato inserito anche il compagno Alfredo Cospito, che ora dal 20 di ottobre ha iniziato uno sciopero della fame ad oltranza. Con lui in solidarietà ci sono altri due compagni anarchici, prigionieri, Juan Sorroque, detenuto nel carcere di Terni nella sezione di alta sicurezza, e Ivan Allocco, che invece è detenuto nel carcere di Villepinte in Francia. E loro hanno iniziato lo sciopero rispettivamente dal 25 e dal 27 ottobre. A loro si è aggiunto anche la compagna di Alfredo. Ecco, noi abbiamo cercato di fare questo presidio proprio per parlare della questione delle carceri, ma anche perché crediamo che tutta una serie di cose come la pratica sionista della detenzione amministrativa trovano un corrispondente qua ad esempio nella questione dei CCTP nei confronti degli immigrati che vengono presi e rinchiusi senza avere che avessero commesso nessun reato. Poi perché siamo comunque contro l'articolo 41 bis e soprattutto l'ergastolo ostativo. E ecco, il presidio ci sta riempendo, per cui siamo anche, ecco, ci saranno, adesso sentite in sottofondo che cominciano i primi interventi. E quello che volevamo ricordare anche oggi, ne approfittiamo per dire che domani, che è il 20, ci sarà un presidio sotto al carcere di Opera. Sì, sì, l'abbiamo detto anche prima. L'abbiamo detto anche prima con la compagna che ci ha presentato proprio il presidio che si terrà ad Opera domani alle 14, lo ricorderemo anche poi successivamente durante l'iniziativa. Ecco, e un'altra iniziativa noi la faremo, adesso non siamo ancora sicuri del luogo, potrebbe essere la panetteria o un altro posto, il 27, che è la domenica, con gli avvocati, proprio sulla questione dell'ergastolo ostativo, del 41 bis, eccetera. E ritenevamo importante muoverci velocemente, proprio perché per rafforzare, e perché qua non esiste una questione che diciamo è soltanto di qualche area, qua è una questione che è per tutti. Esatto, il carcere non fa distinzioni, quando sei in questo meccanismo ti viene applicato quello che appunto ritengono idoneo per te. E soprattutto perciò, i tempi stringono perché il compagno ha deciso di portare avanti questo sciopero ad oltranza, esatto, è già un mese, esatto, e tra breve, esatto, speriamo di no, però probabilmente inizieranno, esatto, ad esserci anche complicazioni fisiche serie. Per Alfredo, va bene, noi ti ringraziamo, poi settimana prossima magari proviamo a rilanciare con maggiore, certo, precisione l'appuntamento, se ce lo, sì, fate sapere, così comunichiamo in radio, esatto, anche dove si terrà l'appuntamento. Ecco. Perfetto, noi ti ringraziamo, ti lasciamo al presidio, non ti vogliamo togliere troppo spazio dalla partecipazione al presidio, anche perché sentiamo che appunto, d'accordo, stai iniziando i primi, sì, interventi, e ci sentiamo presto. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a voi e resistiamo. Perfetto, resistiamo, ciao, sempre. Ciao, ciao, buon presidio. Ciao, ciao. Allora, ringraziamo la compagna che era in diretta, ricordiamo appunto dal presidio, in solidarietà con la lotta dei prigionieri, delle prigionieri palestinesi, anche con tutti i prigionieri nelle carceri italiane, europee, degli Stati Uniti e degli stati imperialisti, che si sta tenendo tra via Padova all'angolo con via Giacosa dalle 15:30. Ora andiamo avanti con un po' di musica, Coming Home, The Invincible Spirit.